tanta angoscia hai diviso che fai? Non senti il suo profumo nell'aria dell'anima? Perdi o divina bellezza o meraviglia? Io soffro, padre, soffro. Amo, stringiti a me, Liu, parlagli tu. Salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano. Signore, amo, amo. La vita c'è laggiù, questa è la vita, padre. La vita c'è laggiù, io soffro, padre, soffro. Qui salvezza la vita, padre, qui. senza lumicino. Sarà nero un cammino. Son più chiare delle nevi di Turandot. Ferro, bronzo, muro, roccia. Fino schinata tua capoccia. Son vetture delle nevi di Turandot. Dunque fa saluta a tutti. Barca i monti dalle flutti. Dalla larga dalle nevi di Turandot. Thank you.

Il funesto con testa la reggia ed è sta la città. Si affronti ad ogni evento. Se lo straniero vince per le nozze e se gli perde, per seppellimento. Io preparo le nozze di Alesegui. Lanterne di festa e bianche lanterne di lutto. Gli incensi e le offerte, gli incensi e le offerte. Volete di farlo, oggi mostrate il bene, ma l'intero scambiate per fatto. I ponti che cantano, i ponti che gemono, e tutto quanto al resto secondo il rito. Minuzioso, minuzioso, infinito. O cielo, o cielo che ora sussù dietro secoli inquieta, come dormivi lieta, gonfio dei tuoi 70.000 gioie come queste, ma tutte di come novinelli, e giù teste, e giù teste, e giù teste, l'anno del dopo non sei, ma del cane fu matto, e l'anno ancora sai per venire, yes. stiam qui, io qui stiam qui, a stillarci il cervello sui libri sacri. Alla Cina la pace ridà, Thank you.

Oh, my God.